Carisa, quella dedicata a Nisciata novembre, e da quello mi fa carna fede la Nisciata. Però Abel Manalo, mi stide il cappellano, padre Ruben de Guara, siamo in la che te possa.